21.07, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, continua il palinsesto serale anche per oggi, 30 maggio del 2018. E va avanti con il sottoscritto DJ Elettrodo con prove tecniche di trasmissione sino alle 22.30 circa. Il contatto telefonico è lo 06 49 17 50. Sito internet anche per il nostro streaming www.ondarossa.info. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info, e per quanto invece riguarda questo spazio, c'è anche una pagina Facebook che è prove tecniche di trasmissione /disorder. Su questa pagina e sul sito della radio stessa domani comparirà playlist e podcast. Infine il conto corrente postale 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale 2001, Via Volsci 56 00185, Roma. Vado ancora a ringraziare tutti quelli che hanno contribuito al nostro crowdfunding per l'acquisto di questo trasmettitore, che è attivo da pochi giorni e già ha dato e sta dando risultati entusiasmanti in termini di ascolti e di qualità di ricezione. E allora si va a salutare Alessandra qui da Roma, come da Roma Like Awake, nella persona di Stefano Di Serio. Da Napoli l'amico Raffaele Pezzella. Antonella dalla Sicilia. Eccetera, eccetera. Per cui andiamo ad iniziare. E proprio da Raffaele Pezzella e la sua instancabile opera di selezionatore e ricercatore di avanguardie, cominciamo dunque con Unexpressed Sounds, The Balkan Perspective. Ormai da molto tempo stiamo analizzando questo lungo compendio riguardante la scena balcanica più nascosta. Siamo giunti a un artista del quale mi aspetto qualche notizia in più, naturalmente da Raffaele. Trattasi di Substack, con questa lunga traccia dal nome Outside. Anzi no, ricominciamo tutto da capo. Ho sbagliato il CD, per cui invece iniziamo con questo duo di nostri due vecchi amici, Fabio FK Drone e Fabrizio Matrone. Un tempo si chiamavano Matter, adesso Eisek coagulante in questo album dal nome Tris, Lucifer Transit of Jupiter, per la Subsidence, etichetta proprio di Fabrizio Matrone. Eisek e coagulant. Valida collaborazione dunque tra EdSec e Coagulant nelle persone di Fabrizio Matrone e Fabio FK Drone. Un tempo loro militavano in una realtà più elettronica dal nome Matter, rimasta da appannaggio del primo Fabrizio Matrone, e adesso si sono ritrovati con questo progetto fondamentalmente di dark ambient con qualche increspatura noise. Come si è anche intuito da queste due tracce ad appannaggio però di EdSec dal nome Shadows e Germination. Un album che esce per un'etichetta proprio di EdSec dal nome Subsidence. Da Londra intanto, from London, Gabriel Edvi che salutiamo. Come lo stesso Fabio FK Drone da Londra anche lui. Dunque, eccolo qua dunque, Raffaele Pezzella, con il quale erroneamente pensavo di iniziare, invece è la seconda proposta di questa sera. Si torna a Nespresso Sounds, The Balkan Perspective, con questa compilation che appunto fa, e giocate, scusate il suono di parole, il punto della situazione, della scena proveniente da laggiù, i Balcani, questa scena così interessante, varia e chiaramente molto sotterranea, che solo uno studioso come Raffaele Pezzella poteva tirar fuori e riportare in superficie. Questa sera ci ascoltiamo Substack con questa lunga Outside. Thank you. Drone ambientale appartenente a Substack, questo artista proveniente dalla Grecia, così ci rivela, e lo ringraziamo, Raffaele Pezzella, Kostas Staikos, un artista che dal 2011 alterna dark techno a questi tappeti ambientali, per l'appunto così oscuri e dilatati. Il tutto da questa compilation dedicata alla scena più nascosta dei Balcani, una parte dell'Europa che ci ha regalato delle delizie veramente scoperte dal professore, a questo punto lo chiamiamo, Raffaele Pezzella, che si starà gingillando con tutti questi complimenti meritatissimi anche come musicista dal nome Sonologist. Intanto salutiamo Anna, anche lei da Roma. E mentre Raffaele Pezzella si gigioneggia davanti a uno specchio, come possiamo intuire, noi andiamo avanti e torniamo indietro di moltissimi anni. Loro sono i Tuxedo Moon, un pezzo di storia della wave di tanti tanti anni fa, con il vantaggio che loro mischiavano anche sperimentazione e avant jazz, come può essere testimonianza questo lavoro dal nome Divine, un lavoro del 1982, il loro quarto se la memoria non mi inganna. Divine, che fu usato come colonna sonora per un balletto, per un'installazione proprio in quegli anni, in quel di Parigi. E quindi questa sera ci ascoltiamo Grand Hotel, Entr'acte 2 e Conquest.

I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? È impressionante pensare come queste note siano una colonna sonora di un balletto, sicuramente emozionale ed interessante, un balletto che, come giustamente ci ricorda Riccardo Martucci da Taranto, che salutiamo, un balletto ideato da Maurice Béjart, che scelse appunto i Taxedomun come autori di questa colonna sonora. 1982, lo splendido Divine. Intanto leggiamo qui e salutiamo Buenalupo da Porto in Portogallo, argilla, cubismo e prove tecniche di trasmissione. Presumo che anche questa sera siamo usati come colonna sonora, e soprattutto per un artista come Buenalupo ci fa particolarmente piacere. Mi fa piacere pensare che lui lavora l'argilla con me e questa musica in sottofondo. Altri saluti: Nicola Locci in Sardegna, Massimo Orz Mascheroni, da Milano. E salutiamo di nuovo Alessandra qui da Roma. Lasciamo questo pezzo di storia, Tuxedo Moon Divine, e ci andiamo ad ascoltare invece un'operazione un po' strana, una uscita molto interessante ad opera di Blood Axis e Leisure Youth della Princess, due gruppi che hanno segnato, insomma, a loro modo una storia negli ultimi anni un po' andata a rilento. La particolarità sta nel fatto che nel 2004-2002, anzi per la precisione, stamparono questo La Folie Verte, un album dedicato all'assenzio e alle cosiddette qualità, ma fecero anche un capitolo a parte, praticamente parallelo, dal nome Absinthia Tetra, con tracce praticamente diverse, assai diverse appunto dalla Folie Verte. E proprio noi da Absinthia Tetra ci andiamo ad ascoltare la prima, La Folie Verte, Variation Musicale e Absinthe Patriote Champ d'Honneur 1914-1915. Ma flotte vers ces l'oubli divin, garçon, vite, une fairy. I am death. questi meravigliosi bozzetti ideati da Blood Axis, La Joyeux de la Princesse e Abscissia Tetra, un album del 2004. Si tratta e si parla dell'assenzio, con annessi e connessi, usi e costumi, le qualità, diciamo, di questa bevanda, che veniva usata anche come ispirazione, per esempio, dai Poeti Maledetti di francese memoria. I Blood Axis erano Annabelle Lee, Michael Mohinan, Robert Farbrake, di origine americana, mentre Le Joyeux de la Princesse, Eric Conofal. Eric Conofal, anzi, dato che è francese, quindi gli cambiamo l'accento. Fatto sta, questo era un album molto bello. E intanto salutiamo anche Marta, che è qui della redazione di Radio Onda Rossa. E c'è stato un siparetto divertente, perché si era dimenticata che oggi è mercoledì e l'aveva scambiato il martedì, per cui era seriamente preoccupata anche per lo stato mentale di chi era eventualmente il martedì sera, che non manda sicuramente Blood Axis e La Joyeux de la Princesse, e quindi si è rassicurata nel sentire la voce del sottoscritto e la musica conseguente. 21:57, Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Ci fa piacere che Raffaele, anche lui, nota la differenza grazie al nuovo trasmettitore e anche al nuovo mixer. Ci fa piacere che anche lo streaming conseguente sia più efficiente. Si va avanti dunque con questo programma, e lo facciamo con andando in Svezia, lo facciamo con Slaughter Natives. Si chiama Ventre, un album passato un po' sotto silenzio, un album del 2016 per la Cyclic Low, etichetta canadese. Fondatore è Juni Auvikainen, un pezzo di storia anche della vecchia Cold Meat Industry. Da questo Ventre ci ascoltiamo Fragment 004 e One Last Farewell.